E adesso che mi guardi con quegli occhi stanchi, che ti sei persa e non sai più cercarti, ed ora che non hai più voglia di spogliarti, che ti guardi allo specchio e vedi rimpianti, però puoi lasciarmi andare dove vuoi, lì dove pensi di star bene, perché a te fingere conviene. Provare sentimenti a rate, con la paura viscerale di un'esistenza normale. Ma non ti sei rotta ancora di scappare. Come un biscotto nel latte può affondare, c'è poco tempo per non farlo sbriciolare. Io sono il cucchiaino che ti può salvare, che ti pesca sul fondo per non morire. E adesso che mi guardi con quegli occhi stanchi, è quasi mattina, non parli e piangi, ed ora che non vuoi più allontanarti, ti specchi nei miei occhi per ritrovarti. Però noi possiamo andare dove vuoi, lì dove pensi di star bene. Lo sai, possiamo andarci insieme fino allo spazio interstellare, oh, in un legame molecolare ti basterà immaginare. E forse questa volta non vorrai scappare. Come un biscotto nel latte può affondare, c'è poco tempo per non farlo sbriciolare. Io sono il cucchiaino che ti può salvare, che ti pesca sul fondo.